torno a casa, mi levo il cappotto. Mi toglieranno te di mezzo con un complotto. Come a Kennedy, mi vogliono terra a terra come al Pippo Kennedy. Sono estremo come l'Oriente, tremo, spremo o tutto niente. Nella scrittura potere occulto, prima fumo o il culto. Endotetra, cannabinoico, naturale come il coito. Come in banca, introito, sento voci, paranoico. Smetterò di fare i dischi un 7 agosto di pomeriggio come Battisti. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Tanti soldi, tanti rischi. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua. Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione. E come vai, come vai, come va, va. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua. Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione. E come vai, come vai, come va, va. In politica è partita pure IVA, apriamo partita IVA, fondiamo un partito che diventiamo tutti ricchi. Chi era IVA? Ivanzanicchi. Ok, il pezzo è giusto, compratemi sti dischi. Prendi questa mano, zingara, e dimmi se sarò un figo. Voglio cash ovunque come Figaro. Figaro su, Figaro là, figa qua, cash là, cash qua. Ti svegli pula, vuoi denaro, fai pezzi d'amore tipo occhi solo per te, che poi se te o chi per te non ce ne fotte. Chiudo soldi nella botte, per i soldi ho fatto a botte, ora il conto è rosso e ossa rotte. Vendi un etto, fatti un tetto, metti gli euro dentro un porco. Io sono già un porco e sono ricco dentro, maiala. Io sono un porco di porcellana e se mi rompi sono ricco ma anche morto, porca puttana. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua. Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione. E come vai, come vai, come va, va. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua. Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione. E come vai, come vai, come va, va. Questa è la base di Fabri Fibra. Come gli specchi, cazzo, 7 anni di sfiga. Non credo nelle superstizioni, ma se vedo un gatto nero mi tocco i coglioni. Ma se vedo un coglione non tocco un gatto nero. Quanti gatti dovrei toccare con tutti i coglioni che vedo? Dammi soldi e ti do le mie soluzioni. Come cartomanti, magia, stregoni. Ti libero da ogni male se mi fai un assegno circolare. Circolare, gente, circolare. In TV non c'è più niente da guardare. Cosa? La storia di un vampiro infetto? Twilight? Direi un nome perfetto. Andare ad Amsterdam con la tipa presso, direi che non casa. È come andare al ristorante e portarsi a mangiare da casa. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua. Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione. E come vai, come vai, come va, va. Dammi soldi e ti porto la soluzione. Cosa ti manca? Tranquillo, ce l'ho io qua. Questo è il mio disco e lo dedico alla nazione. E come vai, come vai, come va, va. Ha ha ha ha ha!